Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Cantante, pianista, compositrice, il suo crossover porta l'Italia all'estero. Esce con un nuovo album, Luci e Ombre, Silvia Nair. Luci e ombre nella vita quotidiana di ciascuno di noi, luci e ombre che sono insite nell'animo umano, luci e ombre nella mia vita, nella mia mente, nel mio cuore. Questo lo voglio definire un album di resilienza perché l'ho scritto in un periodo molto difficile della mia vita personale e quindi è testimonianza della mia fragilità, solitudine, caduta, risalita, forza e conquista. Direi che c'è tutto dentro perché ogni brano è una fotografia di una situazione, di uno stato d'animo, di un sentimento in cui credo che molti si ritroveranno, si identificheranno perché sono fasi inevitabili dell'esistenza di ciascuno di noi. E è un album Luci e Ombre importante da tutti i punti di vista, nel senso sia per i temi trattati dai testi, sia per la scrittura della composizione musicale, sia per le orchestrazioni, anche proprio come messaggio e come progetto artistico per Sound, perché è prodotto da un eccellente team olandese, Frank van der Heijden e Michael Lagrau. Frank van der Heijden è un grande produttore, ha collaborato con grandissime star americane come Michael Jackson, Justin Timberlake, Justin Bieber, John Legend, Celine Dion, David Guetta, quindi grandi nomi, Marta. C'è stato un incontro, un grande feeling, oserei dire magico, di anime, di mondi musicali, artistici e umano, tra me e i miei due produttori olandesi. Non capì, me lo ascoltai, lui mi affascinava, ad un ballo poi mi ritrovai, strani personaggi, oh, come giravano intorno a me, mi sembrò essere il centro di un vortice. Non ti manca mai la tua carriera da notaio? Credo di no, sentendoti parlare. Ma figurati, anzi, perché non ho cominciato prima a cantare, guarda, mi domando. Tra l'altro, a onor del vero, devo dire, io non sono diventata notaio, io mi sono laureata in giurisprudenza, appartengo a una famiglia di notai avvocati, ho fatto pratica notarile, quindi anche il corso di Capozzi. Chi ha studiato giurisprudenza sa cosa vuol dire a Napoli. Quando sono andata a fare il concorso, al terzo scritto ho detto, ma cosa ci sta a fare qui? Non c'entro niente. Questa è la verità, Marta. Di punto in bianco ho mollato tutto e adesso cosa voglio fare? Voglio cantare, così. E non avevo mai fatto concerti, avevo studiato pianoforte in conservatorio, cioè ero forte di studi, hai capito? Però non avevo la gavetta, è presente il pub, i locali, eccetera, no? E essere artisti non è cantare bene, avere una bella voce o scrivere una bella canzone. In realtà essere artisti è un'attitudine. È un modo di vivere, è un modo di pensare, è un modo di agire, è un modo di vedere vita, eventi, situazioni, persone. E io sono sempre stata così. Ho dovuto seguire questa strada. Ma poteva essere la pittura, poteva essere la scrittura, la recitazione. È che il mio linguaggio è la musica. In quanto appunto ho studiato pianoforte e conservatorio, poi ho studiato canto e questo è naturale la musica. Ma dovevo comunque cambiare vita. Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Silvia Nair. Ancora un saluto da Marta Cagnola.